Avrei bisogno di sfogarmi e non so più nemmeno piangere. Com'è difficile aspettare quando arrivi alla mia età. Dovrei parlarne con qualcuno e non c'è campo in tutto l'etere. Delle stelle che non ho afferrato mai, però è qualcosa che ho provato e una volta tornerò a scivolare giù nella corrente per risalire su dolcemente. Al tempo che ho sprecato a far programmi senza agire mai. Stordito, pallido e incazzato, non importa, sono qua.